Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, stasera parliamo dell'impianto dell'Enel di Stillwater in Nevada che ha conquistato le pagine di parecchi quotidiani nei giorni scorsi dopo l'annuncio della messa in funzione di un impianto solare termodinamico che si è aggiunto alla capacità di generazione geotermica e da pannelli fotovoltaici già presenti nel sito, creando così un ibrido a tre rinnovabili che attualmente è qualcosa di unico. Ma diamo il benvenuto a Francesco Venturini, che è amministratore delegato di Enel Green Power, che è qui per parlarci insomma di questa infrastruttura. Buonasera Venturini. Buonasera a tutti. Allora, intanto, se ci descrive un po' meglio l'impianto di come ho fatto io molto approssimativamente. Allora, l'impianto è definito un impianto ibrido perché poi è la combinazione di tre impianti diversi. È un impianto geotermico, è un impianto solare e un impianto, come le ricordava, solare termodinamico. Quindi i tre impianti con tre tecnologie diverse sono combinati in un unico impianto. La centrale geotermica è entrata in esercizio nel 2009 e ha una capacità installata di circa 33 MW. Sì. A questo qui abbiamo aggiunto un impianto solare a fotovoltaico di sì. circa un altro 28 MW. Sì. I due avevano il vantaggio dell'ibridizzazione perché sfruttavano le stesse linee di trasmissione, le stesse persone che gestivano l'impianto. A questi qua abbiamo aggiunto un impianto solare termodinamico che è costituito da specchi parabolici sì. lineari che sono in grado di concentrare la radiazione solare per surriscaldare l'acqua, che è un'acqua demineralizzata, che certo. scorre in pressione all'interno di un tubo collettore. Ma d'accordo, ad acqua quindi. Sì, quest'acqua poi scalda nuovamente il liquido geotermico, gli permette di raggiungere delle temperature più alte e quindi aumenta e migliora il rendimento del ciclo. Perfetto. Quindi sostanzialmente date col sole date un colpetto in più alla temperatura dell'acqua in modo da aumentare il rendimento termodinamico per ragioni insomma di fisica. Esatto, quello corretto. Che succede è che con questo tipo di tecnologia che utilizziamo in geotermia, che utilizziamo negli Stati Uniti, col surriscaldarsi della temperatura il rendimento dell'impianto è minore, col surriscaldarsi della temperatura esterna, mentre il solare ottiene il suo picco di produzione e di efficienza esattamente nel momento più caldo della giornata e quindi le due curve di produzione tendono a colmarsi una con l'altra. Senta, circola questa voce per cui il Massachusetts Institute of Technology, nota diciamo così cattedrale della scienza, aveva avuto un'opinione negativa diciamo sulla utilità di mettere insieme queste tecnologie. È vera questa storia? Lo studio che avevano fatto era uno studio che metteva insieme due tecnologie e poi faceva un'analisi di costo abbastanza precisa, andando a prendere in considerazione il fatto che il solare termodinamico ha delle caratteristiche sue peculiari che lo rendono estremamente costoso e tra l'altro da un punto di vista proprio della tecnologia utilizzata non prevedevano lo scaldamento dell'acqua per dare appunto una scaldatina ulteriore al liquido geotermico, ma una soluzione leggermente diversa. Noi l'abbiamo ristudiata internamente come Enel, siamo riusciti poi a fare l'impianto con qualche anno, diciamo così, di ritardo sì. e quindi il costo anche della tecnologia è sceso, certo. La combinazione di una diversa soluzione con un costo più basso ci ha permesso poi di fare l'impianto. Ecco, senta, diciamo da cittadino italiano uno legge anche un po' con invidia no? di quanto per esempio avete messo in piedi lì a Stillwater. Intanto se c'è un motivo specifico per cui avete scelto il Nevada, a parte che ci deve essere l'energia geotermica e il sole, questo è chiaro. E se ci sono condizioni simili in Italia per fare cose analoghe? Allora, intanto per cominciare, la tecnologia che viene utilizzata da un punto di vista geotermico è una tecnologia a media entalpia negli Stati Uniti. Cosa media che temperatura vuol dire, sì. Esattamente. È una tecnologia cosiddetto ciclo binario, che è diversa dalla tecnologia che viene utilizzata in Italia perché le temperature delle acque, quindi dei flussi geotermici, sono molto più alte. Quindi avrebbe avuto meno senso combinare quella tecnologia con la tecnologia che utilizziamo in particolare in Toscana sul territorio italiano. Al contrario, quello che abbiamo fatto in Italia è stato combinare invece la tecnologia a biomassa con la tecnologia geotermica. Esiste un impianto in questo momento a Castelnuovo Val di Cecina in Toscana, per quanto riguarda la centrale geotermica Cornia 2, su cui abbiamo combinato le due tecnologie. E anche in questo caso si tratta di andare a scaldare sempre la temperatura del flusso geotermico in una seconda fase, aumentando la potenza netta per la produzione di elettricità. Certo, anche in Italia è possibile fare queste cose, ma ne abbiamo tanti di esempi di questo tipo e stiamo sviluppando praticamente dappertutto nel mondo. Abbiamo un esempio in Cile, dove abbiamo messo insieme il solare, il mineolico e la cogenerazione. Abbiamo un esempio negli Stati Uniti, dove stiamo mettendo insieme l'idroelettrico e il solare. Quindi l'ibridizzazione di per sé, portando tanti vantaggi, ci permette anche, tra l'altro, di far sì che quella che è la caratteristica peculiare dei rinnovabili, che sono intermittenti, certo, venga fortemente attenuata. Infatti non a caso lei ha sempre citato, diciamo, almeno penso non a caso, associazioni fra delle fonti rinnovabili programmabili e delle fonti rinnovabili non programmabili. Bene o male, esattamente, no? si cerca di far sì che il prodotto finale che viene fuori dalla centrale ibrida rispecchi da un punto di vista del profilo quelle che siano effettivamente le necessità della domanda di energia. Esattamente. Va bene, grazie allora Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel Green Power. Grazie a voi, grazie a tutti. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.